qui, sono qui con voi, no? Anche questo confronto vi aiuti. Io sono qui che parlo a voi. E non mi vedete con le mani giunte, né in ginocchio. Eppure, io so che sto facendo preghiera, ad alta voce, sudando anche. Ma come? Non dice preghiera lei? Sta discorrendo con noi? Oh! Sì, proprio per questo servizio che vi rendo, dalla prima sillaba all'ultima, io ho inteso e intendo adorare il mistero di Dio in ciascuno di voi. La mia è preghiera rivolta in due direzioni, a Dio e a voi, inseparabilmente. E ogni sacerdote che evangelizza deve avere questo concetto forza nella sua anima. La mia predica è preghiera ad alta voce. Le mie esortazioni sono preghiere ad alta voce, perché mentre io predico ai fratelli, adoro in essi il mistero di Dio. Quindi adesso tocca a me ringraziarvi che mi avete permesso di parlarvi così a lungo, cioè di adorare Dio in voi così a lungo. Oh, che Dio ci conceda di trovarci insieme ancora domani, dopodomani e altre volte ancora, per lo stesso sacro servizio. Ecco, voi offrirete a me motivo di adorazione e voi, ascoltandomi, adorerete il mistero di Dio in voi e nei vicini, nella vostra famiglia, nella parrocchia, nella società, nel mondo. Ero in Maremma per volere di Pio XII, Papa Pacelli, a Castel del Piano, zona turistica sul Monte Amiata. M'era stato detto che sarebbe stata una missione difficile perché il terremoto aveva spaventato quella popolazione da alcune notti e dormivano all'addiaccio, all'aperto, fuori, o nei pullman, nelle macchine, fuori di casa, che facilmente mi avrebbero mandato via, non mi avrebbero ascoltato. E mi sono accorto il primo giorno che la gente non veniva. Mi dicevano: ma padre, chi vuol che venga in chiesa? Un colpo di terremoto, casca il soffitto, chi viene in chiesa? Allora ho cominciato a girare per il paese. Mi sono fermato prima di tutto davanti a un macellaio dove c'era un gruppo di 8-10 persone che si facevano servire. Poi avanti così ho fatto 13 prediche quel giorno, girando così. Ma la predica più bella, non avrei mai pensato, sarebbe stata questa. Con gli altoparlanti, che erano stati applicati alle case più alte, quei permessi del Ministero dell'Interno, avevo detto: io mi trovo per 8-10 giorni nel tale appartamento, via tale, numero tale. Chi avesse bisogno di parlare con me, venga pure a qualunque ora. La mattina dopo quel giro che ho fatto, con le stelle ancora nel cielo, capita un individuo, suona il campanello, e dico: oh, a quest'ora. Sì, non è lei quello che ha detto col microfono, con l'altoparlante, che possiamo venire anche di notte? Sì, sì, sono proprio io. Allora, mi ascolti. Entra, si confessa. Finita la confessione, questo è un segreto inviolabile. Io gli chiedo, mentre l'accompagno all'uscio, dico: ma signore, che cos'è che le ha fatto venire voglia di venirsi a confessare dopo tutti questi anni di assenza? Allora lì, direi, sull'uscio di casa, dell'appartamento, mi dice: lei ieri è passato, vero, con qualche ragazzo, è passato ha fatto il giro del paese, sì, sì, è passato dal caffè centrale del Corso Nasini, il corso principale di questo luogo di villeggiatura, sì, sono passato. Si è fermato davanti a un tavolino dove io con tre amici giocavamo a 3-7? Ah, questo mi sfugge, so dov'è il bar centrale, so che sono passato di là e che c'era diversa gente che parlottava. Si è fermato alle mie spalle, mi ha battuto su una spalla e mi ha detto: buongiorno nonnino. Nonnino, un prete, a me! Finita la partita sono andato a casa dalla moglie. Da tanti anni che ci vogliamo bene e tu non hai mai fatto un complimento come me l'ha fatto oggi un prete al caffè centrale. Nonnino in toscana vuol dire bel vecchietto, è un vezzeggiativo che si danno i fidanzati. Nonnino, nonnina, è un titolo bellissimo per chi conosce il gergo toscano, bellissimo. Ma dico, ma è possibile? Sì, da quando lei mi ha battuto la mano sulla spalla facendomi quel complimento, io ho pensato, devo andarlo a cercare, quel prete. Ed è venuto per quel complimento. Un complimento. Non avevo aggiunto nulla io, perché stavano giocando a carte. Non volevo anche disturbarlo a quella partita 3-7. Soltanto ho detto, buongiorno, nonnino. Un gesto di carità più semplice di così. Ne manco pensavo io che questo vecchio potesse dare tanta importanza a un complimento così, di un minuto secondo. Eppure ha ritrovato se stesso la strada della chiesa, ha ritrovato le braccia di Dio Padre per quel complimento. Un gesto così piccolo di carità che Dio ha ricevuto come fatto a sé e si è curvato su quel povero uomo per redimerlo dal peccato. Che mistero siamo. Siamo felici di essere nati uomini. Ma se non vivessimo per il Dio, per chi dovremmo vivere? Sì, viviamo per Lui. Intrecciamo con Lui un rapporto, un legame intimo e vitale. Troveremo allora che la vita sulla terra è sempre bella, anche quando piove a dirotto, anche quando dai nostri occhi scendono a dirotto le lacrime, anche quando dal nostro volto scendono a dirotto i nostri sudori. Signore Dio, che sul letto di morte, con l'ultima scintilla di intelligenza, ti possa dire grazie. Grazie. Era.